La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L'articolo 11 riguarda ancora l'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale e pone due principi, diversi ma entrambi importanti. Innanzitutto il ripudio della guerra e poi la partecipazione dell'Italia a organizzazioni internazionali che assicurino pace e giustizia fra le nazioni. Sono temi completamente diversi che affrontiamo separatamente. Il ripudio della guerra. Questa parola ripudio la leggiamo bene se ripensiamo agli anni in cui i costituenti scrivono, quando uscivano non da una guerra sanguinosissima, ma addirittura due, perché c'era stata la prima guerra mondiale che era vicina. Ecco allora che l'Italia si pone come un paese pacifista e ripudia la guerra, perché la guerra è inammissibile strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Su questo problema del ripudio alla guerra, in anni più recenti, si è posto qualche dubbio che riguarda la possibilità legittima che l'Italia partecipi alle cosiddette missioni di pace ONU. Sappiamo che le missioni di pace ONU si verificano quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite invia delle sue forze speciali prese dagli eserciti dei diversi paesi per garantire la pace in alcune aree del mondo. L'Italia che ripudia la guerra può mandare dei propri soldati in queste missioni ONU? Ovviamente sì, malgrado i dubbi, perché la finalità non è una finalità di guerra offensiva, di guerra di attacco, ma è una finalità di garantire la pace e la giustizia in determinati territori. Quindi è vietata e ripudiata la guerra come strumento di offesa. La seconda parte dell'articolo, invece, è una parte più costruttiva, nel senso che vede e guarda alle organizzazioni internazionali a cui l'Italia può partecipare. A metà degli anni 40, quindi quando si scriveva la Costituzione, si pensava che l'Organizzazione delle Nazioni Unite potesse nascere come organizzazione molto forte, organizzazione tesa a tutelare pace e giustizia fra le nazioni. I costituenti italiani richiamano proprio queste parole nella Costituzione, cioè l'Italia, che ancora non partecipava all'ONU appena costituita, apre verso l'organizzazione internazionale. Ricordiamo, l'Italia paese sconfitto, quindi paese debole, e assicura la sua partecipazione con una clausola costituzionale. Accade poi che i fatti storici ci dimostrano che l'Italia entra subito a far parte delle Nazioni Unite, ma tuttavia le Nazioni Unite si rivelano un'organizzazione piuttosto debole. Invece parallelamente nasce a livello locale, a livello regionale, un'organizzazione fra i paesi europei. 1951, Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, che poi si estende alla Comunità Economica Europea del 1957, una piccola organizzazione economica fra sei paesi. Questa organizzazione poi cresce, crescerà tanto, per arrivare al sistema, al modello dell'Unione Europea. L'apertura dell'Italia all'Unione Europea è tutta nell'articolo 11, perché anche qui il costituente che guardava lontano, il costituente presbite, come diceva Calamandrei, ha pensato che l'Italia potesse entrare in queste organizzazioni e che addirittura queste organizzazioni avessero il potere di limitare la sovranità nazionale. Cosa significa questo in pratica? Significa quello che oggi accade con l'Unione Europea, che l'Unione Europea emana un suo atto, un suo regolamento che è immediatamente efficace in Italia. Quindi l'Italia partecipa in forza dell'articolo 11 alla pienezza dell'Unione Europea quale paese fondatore. Tutto ciò ovviamente al di là di quelle che sono le dinamiche politiche di un sogno degli Stati Uniti europei che negli ultimi anni si è un po' fermato, si è un po' rallentato e che vede alcune vicende anche molto significative come lo scetticismo sulla moneta unica o piuttosto l'uscita del Regno Unito. Queste sono vicende politiche che interessano meno. Il punto fondamentale è che la Costituzione all'articolo 11 ha una significativa apertura verso la partecipazione piena dell'Italia a queste organizzazioni internazionali che favoriscano pace e giustizia fra le nazioni.